Però volevo condividere questa cosa, i soldatini Atlantic. L'Atlantic era una fabbrica vicino a Bergamo, a Treviglio, a una ventina di chilometri. Noi da ragazzini in bicicletta andavamo lì fuori dalla fabbrica ad aspettare che portassero dei bidoni con i soldatini venuti male, gli scarti di fabbrica, ecco, che noi potevamo prendere. Quindi prendevamo questi scarti di fa, questi soldatini che erano assolutamente malmessi, scarti, quindi erano stranissimi, erano dei corpi deformati e con questi noi formavamo degli eserciti pazzeschi che poi altri ci invidiavano perché non erano in commesso. Erano veramente eserciti alieni, ecco, così.